Allora, intanto do il benvenuto alle nostre ospiti e ai nostri ospiti e ne approfitto sempre quando iniziamo una serata, un incontro, per dare anche delle informazioni di quella che è la nostra attività. Quindi domani ci troviamo alle ore 17:30 nella biblioteca, proprio nella sala sotto, e sarà la volta della presentazione di un libro, Mandala dell'Himalaya, con Ariella Sponza, che è l'autrice che presenterà il libro. Abbiamo poi invece due altri appuntamenti della prossima settimana che vorrei segnalarvi. Martedì 19 alle 17:30 abbiamo Infinitamente Acqua, una visione romantica del navigare con Eleonora Goio e Bruno Franceschini. È un libro di Eleonora Goio e noi in questo mese di marzo lo dedichiamo alle donne, alle autrici, quindi così come il libro di domani, il Mandala dell'Himalaya di Ariella Sponza, è appunto un'autrice, e come stasera abbiamo il piacere di avere con noi la nostra amica Ferragina che ci parlerà di donne, ecco, abbiamo tutta una serie di appuntamenti con delle autrici. E poi invece mercoledì 20 marzo abbiamo Ma una vita non basta, itinerari del cuore, anche in questo caso, no, in questo caso no, è un autore, ecco, Mario Rusca. Comunque ci stanno anche gli uomini, dai. Ecco, allora veniamo alla nostra ospite che ringrazio, abbiamo conosciuto l'anno scorso con una presentazione, ci ha disvelato alcuni segreti relativi, ahimè, alle donne che purtroppo non sono mai così conosciute abbastanza. Questa è un po' anche colpa nostra oggi, magari nel passato no, ma oggi sì, perché sono reduce anche da un incontro di pochi giorni fa dove si parlava e si diceva che non raccontiamo mai troppo quello che facciamo, oppure non lo raccontiamo bene, oppure lo raccontiamo sempre con un pudore e alla fine rimaniamo un po' al palo in alcune situazioni. Invece sarebbe un bene raccontare quello che facciamo e sapere che ci sono delle competenze, delle persone che hanno e delle donne che sanno fare delle cose, le sanno fare molto bene, ma che purtroppo non sapendolo e non raccontandolo alla fine effettivamente manca questa informazione. È un giro di parole per dire che insomma dobbiamo far conoscere le persone, soprattutto le donne, e quello che fanno. E quindi sono molto contenta che sia con noi questa sera la nostra ospite Francesca Ferragina. Vediamo una bella immagine, le donne ci sono ma non si vedono e non si raccontano. Ecco, Francesca Ferragina è molto nota nell'ambito dei social perché ha una grande attività di podcaster, vero? Quindi la ascoltiamo molto, è più difficile incontrarla, però la seguo e so che ha una grandissima attività, la ringrazio per questo suo instancabile attivismo nel sostegno, nel far conoscere appunto le donne. E ricordo che l'Agenda 2030, siglata dall'UNESCO da 197 paesi in tutto il mondo, mette un obiettivo, uno tra i primi obiettivi, quello della parità di genere, che è un obiettivo, ahimè, ancora non molto raggiunto. E le statistiche ce lo confermano ancora tutt'oggi, anche se ci sono dei timidi segnali, ma questi segnali sono molto timidi, ecco, diciamoci la verità. E purtroppo forse anche questa plutocrazia verso la quale ci stiamo spingendo a livello mondiale, intendo, con questi potenti, diciamo, dell'informazione che detengono un PIL maggiore di qualunque altro Stato o addirittura di un continente, ecco, diciamo che non hanno un atteggiamento neanche in questo caso molto favorevole a una parità di genere. Possiamo fare qualcosa? La cultura sicuramente è uno strumento, un mezzo, un modo di vivere in maniera più egualitaria. Ogni tanto scomodo anche l'antica Grecia, perché in effetti il nostro pensiero aveva un concetto di democrazia e ieri sera Luciano Canfora lo ha raccontato. E invito tutti magari anche a rileggere, visto che siamo in un ambito bibliotecario, anche qualche testo dei classici, perché tutto è già stato raccontato e tutti gli strumenti sono stati già messi a disposizione. Quindi lascio la parola adesso alla nostra ospite, che ringrazio. Ricordo che questi interventi sono tutti registrati, questa sera anche quello di Francesca Ferragina, e quindi si possono riascoltare dal sito della Biblioteca Provinciale. Grazie. Grazie. E buona serata a tutte. Io ringrazio per l'opportunità anche quest'anno di essere qui, è vero, sono molto attiva online, ma molto meno fisicamente, questo perché è anche difficile riuscire a trovare uno spazio per parlare delle donne nella storia. Sono argomenti che piacciono, ma che si fa fatica a promuovere. E di conseguenza ovviamente gli spazi hanno delle priorità. Pian pianino mi sto insinuando in quello che è il panorama culturale altoatesino. Sono contenta di essere qui perché a Bolzano, non essendo la mia città è Merano, a Bolzano faccio più fatica, e quindi grazie per questa seconda possibilità. Grazie a voi che siete qui, spero che quello che avrò da raccontarvi vi piacerà. È stato toccato un tema molto importante, cioè quello che le donne quasi per pudore non si raccontano. È che molto probabilmente non siamo abituate, nessuno ci ha mai chiesto che cosa facciamo, come lo facciamo. È quasi dato sempre per scontato quello che facciamo. E mi sembra giusto invece mostrare quello che le donne del passato hanno fatto, perché è più di ciò che leggiamo nei libri di storia attuali, anche se anche qui c'è un timido miglioramento. Racconto sempre questo piccolo aneddoto. Io ho un figlio di 14 anni che sta facendo le scuole secondarie di primo grado, e è risaputo la mia passione per la storia dei Tudor. E quando è arrivato a quel famoso capitolo dello scisma anglicano, quindi Enrico VIII e l'allontanamento della Chiesa da Roma, è stato trattato l'argomento con Enrico VIII, le sei mogli, giusto per dire che Enrico VIII ha avuto sei mogli, e poi due figlie. Di queste una era Maria la Cattolica, che invece viene sempre considerata solo per il fatto che è la sanguinaria, perché ha ucciso molti protestanti. Maria che si è sposata con Filippo II di Spagna. Fine della storia di Maria la sanguinaria. In realtà quello che ha fatto Filippo II l'ha fatto in gran parte proprio perché aveva sposato Maria. E quindi io mi sono arrabbiata molto con l'editore del libro di mio figlio. Ho scritto un'email alla casa editrice, che mi ha risposto chiedendomi scusa e dicendo che stavano già effettivamente lavorando a dei cambiamenti nelle edizioni successive di quel libro. Quindi, se ci facciamo sentire, se ricordiamo queste donne, forse qualcosa cambierà. E oggi allora cominciamo. L'argomento che mi è stato chiesto è quello delle donne tra giornaliste, esploratrici, e la prima di cui vi parlerò è la pioniera del giornalismo, diciamo così, d'azione. Sono una donna che ha il coraggio, l'energia e l'indipendenza che caratterizzano molte donne in quest'epoca. Le parole appena citate sono quelle di una donna coraggiosa, pronta a sfidare le convenzioni per raggiungere i suoi obiettivi. La sua tenacia le ha permesso di affrontare storie che mettevano in luce questioni sociali importanti e ingiustizie. È conosciuta come una delle figure più influenti a cavallo tra il XIX secolo e i primi decenni del 1900. E si può assolutamente affermare che abbia inaugurato l'era del giornalismo investigativo, dimostrando di racchiudere in sé tante figure diverse, cambiando per sempre la percezione della donna nella sfera pubblica. Il suo nome di battesimo è Elizabeth Jane Cochran, ma il mondo la conoscerà con lo pseudonimo di Nellie Bly. Nata in Pennsylvania il 5 maggio 1864, Elizabeth ha dovuto presto far fronte a problemi finanziari dati dalla morte del padre Michael e soprattutto dai numerosi fratelli con cui spartire l'eredità. I fratelli sono ben 14. Dopo aver frequentato l'università locale per un trimestre, si trasferisce con la madre e due fratelli a Pittsburgh. Ha 15 anni e cerca lavoro per aiutare a sostenere la famiglia, ma essendo femmina incontra meno opportunità rispetto ai suoi fratelli, seppur più istruita di loro. Nel 1885 il Pittsburgh Dispatch pubblica un articolo intitolato «A cosa servono le donne?», in cui si delinea come le donne dovrebbero essere semplici casalinghe, senza mancare di criticare il loro coinvolgimento nella forza lavoro. Sotto lo pseudonimo di Lonely Orphan Girl, Elizabeth invia una lettera all'editore del giornale, George Madden, discutendo i suoi pensieri su come le donne dovrebbero invece avere più opportunità a loro disposizione. L'editore ne rimane colpito e poco dopo pubblica un annuncio sul giornale in cui chiede all'anonimo autore di identificarsi. Certo, non poteva aspettarsi la giovane donna che si presenta nel suo ufficio. Eppure, capendo il potenziale di Elizabeth nella lettera scritta, la invita a lavorare per il Dispatch come giornalista per $5 alla settimana. Elizabeth Cochran diventa Nellie Bly, pseudonimo preso da una canzone famosa dell'epoca. Nel 1884 è una delle poche giornaliste a intervistare l'avvocata e attivista per i diritti civili Belva Ann Lockwood, la prima donna a candidarsi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E ancora, quando la Pennsylvania decide di modificare le leggi sul matrimonio e sul divorzio, limitando la libertà delle donne, ovviamente, Nellie decide di opporsi pubblicamente, dando voce ad alcune donne che avevano divorziato. Con la fama, però, arrivano inevitabilmente anche i problemi. Gli industriali e il mondo della finanza iniziano a far pressioni sul giornale per censurare la penna della giovane giornalista. Nellie viene invitata ad occuparsi di argomenti più frivoli come il giardinaggio e la moda, finché nel 1886 non convince il suo direttore Madden a inviarla come corrispondente estera in Messico. Inizia a raccontare storie di povertà e corruzione del paese governato dal presidente Porfirio Diaz, fino a quando, proprio a causa delle sue inchieste, il governo messicano non decide di espellerla e lei è costretta a lasciare il paese e tornare negli Stati Uniti. Insoddisfatta degli incarichi che riceve, Nellie Bly inizia a cercare un giornale che le permetta di scrivere su argomenti più seri. Si trasferisce quindi a New York City, ma anche qui è estremamente difficile trovare lavoro come giornalista donna nel campo dominato dagli uomini. Determinata, nel 1887 fa irruzione nell'ufficio del New York World, uno dei principali quotidiani del paese, affermando di voler scrivere una storia sull'esperienza degli immigrati negli Stati Uniti. L'editore, niente meno che Joseph Pulitzer, colui che istituirà il famoso premio per il giornalista, rifiuta quella storia, ma sfida Nellie ad indagare sul reparto femminile di uno dei più famosi manicomi di New York, a Blackwell's Island. La nostra protagonista non solo accetta la sfida, ma decide di fingersi malata per ottenere la missione al manicomio, così da poter esporre in prima persona come vengono curate le pazienti. Ogni dettaglio della sua inchiesta viene trascritto nella sua opera Ten Days in the Madhouse, e originariamente viene pubblicata come una serie di articoli sul The World, per poi essere successivamente raccolta da Nellie in un libro. La Bly si esercita addirittura a sembrare pazza davanti ad uno specchio a casa sua, aprendo gli occhi il più possibile, fissandoli senza batter ciglia. Inizia il suo incarico trasferendosi con l'identità di Nellie Brown alla casa per donne, dove paga una stanza 30 centesimi a notte. Qui si mostra in atteggiamenti singolari che portano velocemente gli altri inquilini e la padrona di casa a crederla pazza, tanto da chiamare la polizia e far portare Nellie in un'aula di tribunale. Il giudice incaricato dichiara l'imputata pazza, facendola portare al Bellevue Hospital per ulteriori esami. Una volta determinata la pazzia, Nellie viene internata al manicomio di Blackwell's Island, dove si può dire che viene interrogata più che visitata dai medici. Le condizioni sono pessime e presto Nellie si rende conto che molte delle internate non sono per nulla pazze, come i medici fanno credere. Vengono serviti pasti esigui che lasciano le pazienti affamate e all'interno del manicomio si soffre il freddo. I bagni sono ghiacciati e l'acqua nelle vasche non viene cambiata tra un paziente e l'altro, così come esiste solo un asciugamano per tutte. L'igiene è quindi scarsissima, ci si può lavare solo una volta a settimana, mentre biancheria e indumenti vengono cambiati solo una volta al mese. Cosa per cui però si fa eccezione se una delle pazienti riceve una visita. In questo caso viene lavata e cambiata con abiti puliti per far sembrare la gestione del manicomio impeccabile. Che cosa, tranne la tortura, può produrre la follia più di certi trattamenti? Prendete una donna sana fisicamente e mentalmente, rinchiudetela, tenetela inchiodata ad una panca per tutto il giorno, impeditele di comunicare, di muoversi, di ricevere notizie, fatele mangiare cose ignobili e in 2 mesi sprofonderà nella follia. Nellie trascorre 10 giorni e 10 notti nel manicomio, raccogliendo quante più informazioni possibili sulle sue esperienze. Con il suo atto coraggioso e audace ha cementato la sua eredità. 10 Days in the Madhouse fa rapidamente di Nellie una delle giornaliste più famose del paese e della storia. Il suo reportage sulla vita del manicomio sciocca il pubblico portando a maggiori finanziamenti per migliorare le condizioni nell'istituto. Inoltre si può dire che il suo approccio pratico alla cronaca ha sviluppato quello che ora è chiamato ufficialmente giornalismo investigativo. Nellie non si ferma e continua a produrre regolarmente denunce sui mali di New York, come la corruzione nella legislatura statale, agenzie di collocamento senza scrupoli per i lavoratori domestici e il mercato nero per l'acquisto di neonati. Il suo approccio diretto ma compassionevole a questi problemi affascina il pubblico. Il successo di Nellie Bly raggiunge nuove vette nel 1889, quando decide di rivolgersi al suo editore chiedendogli di fare un viaggio attorno al mondo. L'idea le viene dal libro di recente pubblicazione Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Inizialmente il New York World ritiene che sia troppo pericoloso per una donna viaggiare da sola, ma dopo le proteste e minacce non poco velate di Nellie, questi le accorda il reportage. Ha solo pochi giorni per prepararsi e pianificare la sua avventura. Infila tutto quello che può in una borsetta e il 14 novembre parte per un viaggio di 28.000 miglia. La sua prima di molte tappe è Londra, in Inghilterra, dove incontra niente meno che l'autore Jules Verne. Attraversa poi molti paesi, tra cui l'Egitto, la Malesia, Singapore, Hong Kong, la Cina e San Francisco negli Stati Uniti. Racconta ogni dettaglio delle sue avventure e delle sue interazioni con la gente del posto. Trascorre ben 56 giorni, 12 ore e 41 minuti rigorosamente in viaggio e perde 15 giorni e 17 ore a causa dei ritardi vari. Ma il 25 gennaio 1890 Nellie Bly fa il suo arrivo a Jersey City, completando così la sua impresa. Gli aggiornamenti sul suo viaggio vengono pubblicati quotidianamente e l'intero paese segue la storia con il fiato sospeso. Il suo viaggio dura solo 72 giorni, stabilendo un nuovo record mondiale, che però durerà pochi mesi finché non viene battuto dall'uomo d'affari George Francis Train, che lo completa in soli 67 giorni. Continuerà a pubblicare pezzi di giornalismo influenti, comprese interviste con personaggi di spicco come l'attivista e scrittrice anarchica Emma Goldman e il politico socialista e organizzatore sindacale Eugene Victor Debs. All'età di 30 anni, Nelly sposa il milionario industriale Robert Seaman, ritirandosi così dal giornalismo. Ma 10 anni dopo il marito muore e nel 1903 diventa una donna d'affari di successo, in quanto brevetta una serie di invenzioni legate alla produzione di petrolio, molte delle quali però sono in uso ancora oggi, e fornisce ai suoi dipendenti un buon ambiente di lavoro, dando priorità al loro benessere, fornendo prestazioni sanitarie e strutture ricreative. Tuttavia, non era così abile nel gestire le finanze dell'azienda. Fallirà a seguito di frodi da parte di questi stessi dipendenti. Dopo questa parentesi nel mondo industriale, Nelly torna al giornalismo e lo fa scrivendo della Woman Suffragette Parade nel 1913 a Washington. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, Nelly Bly torna al giornalismo di inchiesta. È una delle pochissime reporter donna durante la guerra. È inviata dal New York Evening Journal sul fronte austriaco. E Nelly racconta nei suoi articoli l'orrore della guerra, i volti terrorizzati con gli occhi scavati e la vita dei soldati nelle trincee, tra il fango e il freddo e i topi. Rientrata a New York, continua l'attività giornalistica collaborando per il New York Journal, mobilitandosi per trovare case a bambini orfani e sostenere donne rimaste vedove per la guerra. Nelly Bly si spegne nel 1922, a 57 anni, per delle complicazioni legate ad una polmonite. Poche settimane prima, però, lascia il suo epitaffio. Non ho mai scritto una parola che non provenisse dal mio cuore, e mai lo farò. In un tributo dopo la sua morte, l'acclamato direttore del giornale Arthur Brisman ricorderà Nelly Bly come il miglior reporter d'America. La storia di Nelly Bly è la storia di una donna, giornalista investigativa ed esploratrice da record, che ha trovato il coraggio di ribellarsi ad un sistema sessista e patriarcale, in cui le donne erano ancora relegate alla sfera domestica e all'accudimento della famiglia, dimostrando al mondo intero l'importanza dell'autodeterminazione femminile e contribuendo con il suo esempio personale al difficile cammino verso la parità di genere. A 102 anni dalla sua morte, quella di Nelly Bly resta ancora una storia esemplare. Di solito vado in ordine cronologico con le donne, ma questa volta farò un'eccezione, ve ne accorgerete. Adesso passiamo a una donna molto più recente, diciamo così, una donna moderna, molto moderna, e scoprirete anche tanto tanto affascinante. Corrispondente di guerra o una moglie nel mio letto? Questa citazione è niente po' di meno che di Ernest Hemingway. Il famoso scrittore del Vecchio e il Mare pone questa domanda alla sua terza moglie, nonché la nostra protagonista. Una donna tutt'altro che remissiva e che infatti divorzierà. Si sposerà ben due volte e avrà una schiera di amanti, ma non si concederà mai del tutto, rimanendo fedele ad un'unica cosa: la sua libertà. Preparatevi a conoscere Martha Gellhorn. Antesignana delle corrispondenti di guerra, tra i primi testimoni dell'orrore del campo di concentramento di Dachau, clandestina nello scafo di una delle navi del D-Day. Martha Gellhorn ha raccontato con i suoi reportage il dietro le quinte delle guerre del XX secolo. Ma andiamo per ordine. Martha Ellis Gellhorn nasce l'8 novembre 1908 a St. Louis, nel Missouri, da una famiglia di origine ebraica. Sua madre è Edna Fischel, una suffragetta, e suo padre, George Gellhorn, è un ginecologo di origine tedesca. Si iscrive al College di Filadelfia, ma lo lascia nel 1927 per inseguire la carriera di giornalista. Il The New Republic le stava stretto. Voleva assolutamente vedere il mondo e raccontarlo, quindi decide di partire per la Francia, dove scrive nel 1934 il suo primo libro di denuncia. What Mad Pursuit, ovvero Che folle ricerca, che descrive le sue esperienze nel movimento pacifista di cui era diventata attivista. Una volta tornata negli Stati Uniti, si lega alla First Lady Eleanor Roosevelt, grazie ai rapporti che scriveva sull'impatto della Grande Depressione del paese. Questo legame diventerà un'amicizia costante per tutta la vita delle due donne. Dai rapporti per la Federal Emergency Relief Administration, Martha nel 1936 ne trae il suo racconto The Trouble I've Seen, il problema che ho visto. E sempre nel 1936, un viaggio di famiglia nella West Florida le fa conoscere il suo futuro marito, Ernest Hemingway. Lo scrittore, infatti, possiede lì una casa che utilizza per andare a pesca. L'uomo è sposato con la giornalista Pauline Pfeiffer, ma decide comunque di seguire Martha in Spagna, dove è diretta come corrispondente per la guerra civile in atto per conto del Colliers Weekly. Insieme i due lavorano come giornalisti d'assalto e la complicità e la passione nel lavoro si trasforma anche in una relazione d'amore. Malgrado il loro rapporto sia di dominio pubblico, i due però devono comunque aspettare il 1940 per essere ufficialmente marito e moglie. Le lunghe assenze di Martha, che continua a svolgere il suo lavoro di corrispondente in giro per il mondo, irritano non poco lo scrittore, che nel 1943, appunto, le dice la famosa frase che vi ho riportato in apertura. I due litigano spesso, il matrimonio diventa da subito burrascoso. Hemingway sembra non accettare la caparbietà di Martha e quest'ultima non accetta i limiti che il marito le impone. Non solo, a peggiorare la situazione, Hemingway, tra il 1943 e il 1944, decide di mandare i suoi reportage allo stesso giornale della moglie, il Colliers Weekly, e tenta pure di ostacolarle il ritorno in Europa, cosa che però lei risolve affrontando un pericolosissimo viaggio nell'Atlantico a bordo di una nave carica di esplosivi. La furia di Martha è incontenibile. Malgrado sia professionista stimata, non poteva assolutamente competere con la fama del marito e non di meno con il suo essere uomo in un mondo di uomini. Nel 1945 il matrimonio finisce disastrosamente e Martha, senza mai voltarsi indietro, prosegue quella che sente essere la sua unica missione: essere testimone degli orrori delle guerre. Ma riavvolgiamo per un attimo la linea del tempo e torniamo al 1938, quando Martha si trova in Germania ad assistere alla tremenda ascesa di Adolf Hitler. Oppure quando si trova in Cecoslovacchia, dove scriverà ciò che vede nel suo libro A Stricken Field, un campo colpito, nel 1940. Le lamentele di Hemingway hanno effettivamente un po' di fondamenta. La nostra giornalista d'assalto, infatti, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, inizia a girare il mondo come corrispondente in Finlandia, Hong Kong, Burma, Singapore, Inghilterra e in Italia. Come donna, però, ha molti limiti. E questi limiti li ho trovati anche in un romanzo che ho letto qualche estate fa, Il segreto della fotografa francese. dove la protagonista è proprio una giornalista e fotografa di guerra. Nella trama troviamo anche la nostra Marta. E molta della storia si rifà ad avvenimenti e persone realmente esistiti. Vengono raccontate tutte le restrizioni degli spazi in cui possono stare le giornaliste, il divieto di frequentare le trincee e i soldati stessi. La possibilità di muoversi con mezzi pesanti, ma ciò che più farà infuriare queste donne è il divieto di poter assistere e documentare lo sbarco in Normandia. Sia nel romanzo che nella realtà non si fa fermare Marta da un regolamento assurdo che addirittura vieta alle donne di gettarsi con un paracadute perché, a detta del Ministero della Salute, potrebbe danneggiare il loro apparato riproduttivo. Marta dice riguardo: «Ho il diritto di servire come occhi per milioni di persone in America che hanno disperatamente bisogno di vedere, ma non possono vedere da soli». Decide quindi di raggirare il sistema fingendosi inizialmente un'infermiera e poi nascondendosi nel cargo di una nave che trasporta le truppe in Francia. Arriva sulla costa della Normandia l'8 giugno, 2 giorni dopo lo sbarco, ed è l'unica donna ad aver osato tanto. Come previsto, i suoi articoli sono surclassati da quelli del marito e il giornale le dedica una misera pagina 16 solo il 5 di agosto, senza riportare nessuna fotografia e senza far riferimento all'espediente utilizzato dalla giornalista per raggiungere la Francia. Dopo il D-Day, le strade dei due coniugi si dividono definitivamente. Hemingway andrà a Parigi, mentre Marta proseguirà per la Germania, dove sarà la prima donna a raccontare gli orrori del campo di concentramento di Dachau. Come detto, divorzieranno nel 1945 e da quel momento Marta non vorrà più saperne nulla di Hemingway. Riporto una sua frase: «Sono stata una scrittrice per oltre 40 anni. Ero una scrittrice prima di incontrarlo e sono stata una scrittrice dopo che l'ho lasciato. Perché dovrei essere semplicemente una nota a piedi pagina nella sua vita?» Direi che aveva ragione. Ora però vorrei prendere una piccola pausa dalla storia di Marta per rendervi partecipi di alcune curiosità sul periodo e il tema trattato. Nel mio podcast questa è la rubrica delle 5 curiosità e spero possano piacervi. In questo caso il soggetto delle 5 curiosità è il D-Day, ovvero il 6 giugno 1944, giorno che è ricordato come l'inizio della liberazione dell'Europa dall'occupazione tedesca. Curiosità numero 1. Sapete a cosa si riferisce la D in D-Day? È una allitterazione che indica l'inizio di un'operazione segreta in cui, una volta stabilito il giorno e comunicato in modo criptico a tutti gli interessati, lo si indica genericamente con D di Day. Esiste anche la versione per l'orario e in quel caso si usa il termine H-hour. Curiosità numero 2. Sapete che cosa ha fatto Hitler quando è avvenuto lo sbarco in Normandia? Niente. Il Führer infatti stava dormendo beatamente. Questo perché aveva ordinato di non essere disturbato per nessun motivo. E visto che in un'altra occasione chi non ha rispettato questo ordine se l'è vista brutta, nessuno ha osato rischiare di svegliarlo. Hitler si sveglierà intorno a mezzogiorno, quando il D-Day era cominciato già da 6 ore. Curiosità numero 3. Sapete come hanno fatto gli alleati a fregare in modo così plateare i nazisti? Sono molti i fattori che hanno portato alla riuscita dello sbarco della liberazione. Uno fra tutti è dato dal fallimento dell'organizzazione di un'altra missione a Calais. I tedeschi erano riusciti a scoprire le intenzioni degli alleati di sbarcare a Pas-de-Calais. Questi hanno colto la palla al balzo e, con l'aiuto di agenti doppiogiochisti, tra l'altro c'è anche tra questi agenti doppio giochisti, queste spie, c'era anche tutto un settore femminile che è denominato settore F, e se siete curiosi nel mio podcast lo tratto, quindi anche qua le donne. Comunque hanno lasciato che Hitler e i suoi continuassero ad organizzarsi in quella zona della Francia, mentre in realtà si stava dando vita ad una nuova operazione chiamata Fortitude, che avrebbe permesso di bloccare la 15ª armata tedesca fino a luglio del 44. Il successo dell'operazione Neptune, il vero sbarco, è dovuto anche ad Alan Turing e al suo team del progetto Ultra, che con la loro macchina Colossus riusciranno a decriptare i messaggi tedeschi ed inviare quelle che noi ora chiamiamo delle fake news ai nemici. Curiosità numero 4. Durante l'organizzazione dell'operazione di liberazione si trova spesso il nome di un esercito, il FUSAC. Sapete che cos'è? È l'acronimo di Third United States Army Group. Il FUSAC è un intero esercito finto ed è stato affidato ad un comandante vero, il generale Patton. Questo esercito fasullo è arrivato ad avere perfino dei carri armati gonfiabili e aerei di legno. Tutto questo per far sì che i ricognitori tedeschi in volo sui campi militari pensassero ad un imminente attacco degli alleati. Quinta ed ultima curiosità. Sapete cosa c'entra James Bond con il D-Day? Beh, ovviamente non ha partecipato realmente al D-Day, però il suo autore, Ian Fleming, che all'epoca lavorava per i servizi segreti inglesi, ha ispirato con le avventure del suo celebre protagonista, Ewan Montagu, ufficiale dell'intelligence britannica, in quella che verrà ricordata come Operazione Mincemeat, carne trita. L'operazione faceva parte di quella per sviare i tedeschi e far credere loro che sarebbero avvenuti sbarchi in Grecia e in Sardegna e non in Sicilia come si pensava. Come hanno fatto? Facendo arrivare alla deriva della costa spagnola, soggetta a forti influenze naziste, il corpo esamine di un maggiore dei Royal Marines alleato, con alcuni documenti falsi. Questi documenti erano una lettera del vice capo di Stato Maggiore per il comandante del 18° gruppo di armate. Ma poi c'era anche una missiva inviata all'ammiraglio Cunningham, comandante navale alleato del Mediterraneo, da parte dell'ammiraglio Lewis Mountbatten. Sì, proprio l'amato zio del defunto principe Filippo. L'operazione riuscì. E i tedeschi, con l'opposizione degli alleati italiani, ridisposero le loro forze proprio come volevano gli alleati, lasciando l'isola siciliana con scarse unità di difesa. Il nome del soldato era inventato. È William Martin, così come tutti i suoi effetti personali trovati sul cadavere, lettere della falsa fidanzata Pam, dell'affezionatissimo padre, come si firma nelle lettere finte, e addirittura una lettera di sollecito della Lloyds Bank. Lo stratagemma funzionò, e funzionò così bene che a Huelva, dove lo trovarono, è ancora presente e visitabile la sua tomba con tutti gli onori. Le curiosità sono finite. Torniamo a Marta. L'avevamo lasciata al suo reportage sul campo di concentramento di Dachau. Qui scrive: abbiamo visto tutti i morti come fagotti che giacevano su quelle strade di mezza terra, ma da nessuna parte c'era niente di simile. Niente in guerra è mai stato così follemente malvagio come questi morti affamati e oltraggiati, nudi e senza nome. Dietro a un mucchio di morti giacevano i corpi sani e vestiti delle guardie tedesche che erano state trovate nello stesso campo. Furono uccisi immediatamente dai prigionieri quando l'esercito americano entrò e per la prima volta in assoluto si poteva guardare un uomo morto con gioia. Scrive ancora: abbiamo attraversato l'ampio e polveroso complesso tra le baracche della prigione e siamo andati poi all'ospedale. Nell'atrio sedevano più degli scheletri e da loro proveniva l'odore della malattia e della morte. Ci guardavano, ma non si muovevano. Nessuna espressione mostra su un viso che è solo pelle, ispida, giallastra, tesa sulle ossa. Marta ha modo di parlare con i prigionieri sopravvissuti che le riferiscono del lavoro forzato e della quotidianità al campo. Ciò che ha ucciso la maggior parte di loro è stata la fame. Morire di fame era una questione di routine. Si lavorava per molte ore con razioni magre e vivendo in stanze sovraffollate, corpi stipati in baracche non ventilate dove ci si svegliava sempre più deboli ogni mattina aspettandosi la morte. Marta poi trova i documenti della gestione del campo e scopre che sono stati internati a Dachau oltre 200.000 prigionieri dalla sua apertura nel 1933. Di questo scrive: «Non si sa quante persone siano morte in questo campo nei 12 anni della sua esistenza. Quello che è certo è che 45.000 sono i morti solo degli ultimi 3 anni». Questi numeri verranno poi modificati quando si scopriranno dei campi di concentramento, diciamo così, minori e altri schemi utilizzati dai tedeschi per uccidere gli ebrei. Ma nel suo reportage Marta non manca di cinismo e scrive: «Davanti al crematorio, da un tratto di giardino, c'era una lunga fila di case ben costruite e comode. Qui abitavano le famiglie degli ufficiali delle SS. Le mogli e i figli vivevano qui felicemente, mentre i camini del crematorio vomitavano ceneri umane. I prigionieri venivano uccisi nella camera gas, perché sebbene fossero troppo deboli per lavorare, a detta dei nazisti, non avevano nemmeno la grazia di morire». Tra parentesi, ciò che scrive Marta lo si rivedrà nel libro del 2014, La zona di interesse, che ha poi ispirato il film vincitore del premio Oscar come miglior film straniero qualche giorno fa. L'esperienza a Dachau segna profondamente l'animo di Marta, che una volta finita la guerra sente di non poter mai più tornare ad una vita normale. Allo scoppio della guerra in Vietnam, infatti, la nostra protagonista è in prima linea a descrivere gli orrori di quella guerra a cui lei era contraria e che la storia poi definirà inutile. Successivamente parteciperà alla guerra dei 6 giorni in Medio Oriente e all'età di 81 anni non mancherà di scrivere delle guerre civili in America Centrale. Sarà solo nel 1990, quando scoppia la guerra in Bosnia, che Marta si ferma, ammettendo di essere troppo vecchia per partire. Ma comunque non si ferma e va in Brasile per un reportage sulla morte dei bambini di strada, crimini che lei ritiene intollerabili, di cui scrive con molta amarezza. Marta Ellis Galron muore a Londra il 15 febbraio 1998, dimostrando che non si sarebbe lasciata controllare nemmeno dalla morte. Gravemente malata di cancro alle ovaie, che si diffonde poi nel fegato, e quasi completamente cieca, Marta decide di togliersi la vita con delle pastiglie di cianuro. Come detto, questa donna ha sempre tenuto la sua libertà fisica e di pensiero. Si è ribellata a qualunque uomo volesse relegarla a ruoli che all'epoca veniva imposto alle donne. Ha dato priorità alla sua voglia di viaggiare, vedere e raccontare. Uno spirito libero a cui l'English Heritage ha dedicato una targa blu all'esterno dell'appartamento in cui ha vissuto negli ultimi 28 anni della sua vita. Ciò che colpisce è che questa targa è la prima che reca la dicitura corrispondente di guerra. Un riconoscimento che Marta avrebbe sicuramente apprezzato dopo anni di lotta per emergere ed essere considerata al pari dei suoi colleghi uomini. Altro onore per questa fantastica donna è un premio giornalistico denominato Marta Gellron Prize for Journalism e viene assegnato ogni anno. Martha è stata anche una scrittrice di narrativa di successo, scrivendo 5 romanzi, 14 novelle e 2 raccolte di racconti. Molti di questi li ha basati sulle persone e sugli eventi che aveva incontrato mentre viaggiava per il mondo. E durante un'intervista verso la fine della sua vita, Martha ha riflettuto sulle sue esperienze e ha detto: «Sono molto, troppo privilegiata. Ho avuto una vita meravigliosa. Non me la meritavo, ma ce l'ho fatta». Una donna che con il suo talento, il suo coraggio e la sua tenacia merita di essere ricordata e menzionata nelle pagine di storia. Allora, come detto, di solito vado in ordine cronologico. Invece questa volta, dopo che vi ho parlato di una donna che ha vissuto praticamente fino a ieri, torniamo indietro di tanto, tanto tempo, 1000 anni. Perché adesso voglio farvi vedere che se queste donne, Nellie Bly, Martha, vi hanno stupito, beh, c'è qualcuno che 1000 anni prima ha fatto qualcosa di simile. Ah, portate pazienza. Notare il nome. Io vi giuro, ci ho provato e riprovato, ma sicuramente mi sbaglierò a pronunciare e probabilmente mi fermerò ogni tanto a respirare e fare lo spelling. Però insomma, ci proviamo. Dalle valchirie della mitologia norrena, le donne prime ministre e presidenti, il mondo nordico ha da proporre una lunga storia di donne straordinarie. Malgrado lo stereotipo comune veda uomini biondi e barbuti su barche che razziano le coste dell'Europa occidentale come protagonisti assoluti della storia vichinga, abbiamo già visto, conoscendo un altro personaggio, la Gerda, che vi consiglio di andare a vedere, quanto tutto ciò sia lontano dalla realtà dei fatti. Le antiche saghe norrene lodano le imprese di Erik il Rosso e Leif Erikson, ma il loro vero eroe è una donna. È stata definita la più grande esploratrice di tutti i tempi e la donna del Medioevo che ha viaggiato di più. Preparatevi quindi a conoscere l'intrepida vita di Gudrid Thorbjørnsdottir, ovvero colei che ha viaggiato lontano. Allora, quel poco che sappiamo di Gudrid proviene dalla saga di Erik il Rosso, ovviamente, trafiletto della storia di un uomo, e dalla saga dei re groenlandesi, più conosciute come la saga di Vinland, dal nome dell'uva selvatica che cresceva nel Nord America, la zona di esplorazione vichinga. Queste saghe furono raccontate e riraccontate a memoria finché non furono scritte su carta nel XIII secolo. A causa di questi 200 anni di trasmissione orale, probabilmente contengono numerose incongruenze, oltre al fatto che mescolano liberamente la realtà con la finzione. Le loro pagine pullulano di draghi, troll e altri esseri soprannaturali. Eppure, i punti salienti delle saghe sono stati dimostrati dall'archeologia. Negli anni 60, i resti di un avamposto vichingo furono rinvenuti a Landsumme o Midjuv, sulla punta settentrionale di Terranova. Tra le macerie è stato ritrovato un fuso, utilizzato per la filatura, lavoro tipico delle donne e quindi forse maneggiato proprio dalla stessa Gudrid. Ma andiamo con ordine. Secondo queste saghe, Gudrid nasce alla fine del IX secolo a Snæfellsnes, all'estremo ovest dell'Islanda. Certo, voi direte, potevi dire direttamente all'estremo ovest dell'Islanda? No, mi piace provarci. Da una famiglia paleocristiana, quando è invece ancora il paganesimo la norma. Da bambina cresce con gli amici del padre, usanza questa che era tradizionale per l'epoca. Malgrado nel suo albero genealogico ci sia la presenza di uno schiavo norvegese che ha ottenuto la libertà, quando a 15 anni Gudrid vuole sposare un uomo figlio di uno schiavo, suo padre, Torbjörn Vivilsson, nega il suo consenso. Non sappiamo quanto questo l'abbia delusa. Sappiamo però che a seguito di questo fidanzamento non riuscito, si unisce al padre in un viaggio in Groenlandia, nella spedizione guidata da Erik il Rosso, con lo scopo di stabilire colonie prospere. Nell'immagine che ho trovato in un libro per bambini inglesi, la storia inglese, si vedono tutti i viaggi che farà Gudrid. E il primo, appunto, dall'Islanda va verso la Groenlandia. Il viaggio risulta molto difficile, tanto che metà dei 30 uomini sulla nave muoiono di malattia. Ma non è questo il destino di Gudrid, e neanche di suo padre, che invece arrivano sani e salvi a destinazione. Una volta stabilitasi in Groenlandia, Gudrid sposa un norvegese di nome Thorir, il quale però muore l'inverno successivo durante una carestia che colpisce l'intera colonia. A questo punto Thorbjörn decide di darla in sposa a Thorstein Eriksson, figlio di Erik il Rosso e fratello minore di Leif Eriksson, il primo uomo europeo a mettere piede nelle Americhe. Gudrid si unisce al nuovo marito per raggiungere Vinland, l'insediamento vichingo nella zona costiera del Nord America, l'odierno Canada. Prima di salpare verso ovest, però, la coppia decide di trascorrere l'inverno in Norvegia, dove Thorstein muore a causa di una pestilenza che colpisce la zona. Era così all'epoca, duravano poco. La leggenda narra che in seguito il fantasma, ecco le leggende che arrivano, il fantasma del marito defunto le appaia dicendole che è destinata alla grandezza, ad una vita lunga e avventurosa. A 17 anni è rimasta vedova già due volte e quindi Gudrid fa ritorno al suo insediamento in Groenlandia. Qui sposa un uomo di nome Thorfinn Karnsefni, un commerciante islandese. Ma la voglia di avventura non si placa e esorta il marito ad unirsi ad una spedizione a Vinland, che comprende 60 uomini, 5 donne e una selezione di bestiame. I nuovi coloni arrivano sani e salvi nel Nord America, raggiungendo il nuovo mondo ben 500 anni prima di quanto ci abbiano sempre insegnato con la scoperta di Cristoforo Colombo. Gudrid e suo marito vivono a Vinland per 3 anni e sarà in questo periodo che nascerà colui che viene definito il primo europeo nato nell'emisfero occidentale, Snorri, il figlio di Gudrid. I rapporti con gli indigeni sono tutt'altro che pacifici e sono molti i coloni che decidono di lasciare quella terra lontana. Tra questi c'è anche Gudrid, che assieme al marito e al figlio fa ritorno in Islanda, costruendo una fattoria chiamata Glaumbær. Ma se pensate che le avventure di questa grande donna siano finite così, beh, vi sbagliate di grosso. Intorno ai 40-50 anni, infatti, Gudrid, che nel frattempo si è convertita definitivamente al cristianesimo, decide di intraprendere un altro viaggio. Questa volta da sola, a Roma. Si dice che ci sia andata addirittura a piedi e sono molti gli storici che si chiedono se abbia parlato oppure no agli esponenti della Chiesa del suo viaggio e dell'esistenza del Nuovo Mondo. Ad ogni modo, Gudrid torna dalla città eterna scoprendo che nel frattempo suo figlio Snorri ha costruito sul loro terreno una chiesa, esattamente come le aveva predetto il fantasma di Thorstein. Gudrid può quindi dedicarsi alla vita religiosa in solitudine e contemplazione, diventando la prima suora d'Islanda, un traguardo finale di una vita unica. Purtroppo, Non si sa esattamente l'anno di morte di Gudrid, ma quel che è certo è che ha generato una famiglia potente ed influente. Tra la sua illustre progenie ci saranno infatti 3 vescovi di Islanda. Questo le fa onore se si considera che lei stessa è stata esponente di un cristianesimo definito celtico, ancora intriso di usanze pagane, ma capace di creare un dialogo tra cristiani e pagani. Secoli dopo ci sarà poi uno scrittore di saghe islandesi che, tra le altre, trascriverà anche la saga di Eric il Rosso, in cui non mancherà di menzionare la famosa antenata. Una statua di Gudrid, creata per l'esposizione mondiale di New York nel 1939, si trova ora a Glamberg. L'esploratrice scruta la prua di una nave, con il giovane Snorri sulla sua spalla. Esistono 2 copie della statua. Una a Laugarbrekka, sulla penisola di Snæfellsnes, quella di prima, e l'altra nell'atrio dell'Archivio Nazionale del Canada a Ottawa. Una donna che è sopravvissuta a intemperie, epidemie e naufragi, che ha vissuto la sua vita pronta a cambiare orizzonte ogni volta che ce n'era bisogno. Una donna caparbia e che, esplorando il mondo, ha tracciato una nuova rotta per le donne. Una rotta che non può non essere ricordata dalla storia. La storia di una donna nella storia. Se avete domande o curiosità, volentieri. Se volete condividere qualche pensiero che vi è venuto ascoltando queste donne, anche questo molto volentieri. Sì, e ancora oggi, sotto certi aspetti, quando si divorzia quasi ci si sente giudicati, no? Anche da persone che non c'entrano niente col proprio matrimonio. Sì, sono molto indipendente ed è una cosa che ho notato in molte donne che ho trattato. Effettivamente forse un'indipendenza emotiva ha dato quella spinta giusta e necessaria a farsi valere nei vari ambiti in cui si sono cimentate. Tralasciando magari, nel caso di Gudrid è interessante il fatto che nella cultura vichinga le donne avessero molta indipendenza, e proprio la settimana scorsa ho avuto modo di fare una diretta su Instagram con un'archeologa, e abbiamo parlato di Cthulhun, un'altra donna guerriera molto interessante, principessa mongola, da cui poi è stato tratto il personaggio della Turandot. E con questa archeologa più parlavamo, più ci rendevamo conto di quanto le donne delle culture nomadi, di culture dove gli uomini dovevano stare spesso via per cacciare, per andare a conquistare il mondo, comunque erano donne che venivano spesso lasciate da sole, e questo portava sicuramente a un'educazione diversa rispetto a quelle europee, quelle più sedentarie, perché dovevano arrangiarsi, quindi gli stessi padri insegnava loro a essere indipendenti, a sapersi difendere, e forse questa necessità di difendersi, ma non solo difendersi loro stesse, difendere la proprietà, il loro terreno, perché non so quanto interessasse difendere loro stesse come persona, ai padri, agli mariti, ma interessava che rimanesse qualcuno a badare agli animali, al terreno. E quindi questa loro, dalla necessità ne è nata un'indipendenza anche sicuramente caratteriale e gestionale. Tanto che nella cultura vichinga, adesso Gudrid era sempre vedova, poveretta, ma in realtà c'era anche una normativa interna nella cultura vichinga che permetteva alle donne di dichiararsi libere dal vincolo matrimoniale se il marito per un qualche motivo dopo 3 mesi non tornava. Cioè, se questo partiva per andare a conquistare un qualcosa e dopo 3 mesi non tornava, la donna era liberissima di trovarsi un nuovo marito. Se, se poi tornava non aveva nessun diritto quest'uomo, eh? Se poi tornava dopo quei 3 mesi lì, lei era libera di dirgli no, stai dove eri. E questo nella cultura appunto delle donne, delle civiltà nomadi. Mentre nelle culture invece più nostre, diciamo così, europee, questa indipendenza ce l'avevano le vedove. E questa è una cosa che si è vista sia per quanto riguarda la gerarchia alta, quindi le donne monarche, riuscivano a farsi spazio, a farsi sentire grazie alla vedovanza e soprattutto se avevano un figlio piccolo per cui fare da reggente. Questo era un buon modo per le donne di trovare spazio. Altrimenti, anche nei ranghi un po' più bassi, la vedovanza permetteva loro di ricostruirsi una vita, perché venivano date in moglie molto giovani e quindi spesso rimanevano anche vedove giovani e quindi avevano modo di rifarsi una vita. Ne è un esempio Christine de Pizan, che dalla sua vedovanza poi ha tratto una carriera brillante, ma poi anche nel Settecento le donne dello Champagne, ad esempio. Se andiamo a vedere i grandi nomi dello champagne francese, sono donne che sono vedove. Veuve Clicquot, la Pomary, la Bollinger, tutte vedove. Quindi quando si liberavano del marito riuscivano ad emergere. Adesso, grazie al cielo, insomma, non dobbiamo liberarci dei mariti, però sicuramente avere dei mariti ingombranti ancora oggi possono, cioè è una situazione che può ostacolare le donne. Quindi non facciamo che dobbiamo tornare a rimanere vedove per ottenere qualcosa. Grazie. Grazie. Ho lasciato il QR che, se inquadrato, porta direttamente al mio Linktree, ovvero una raccolta di link dove c'è sia il link per accedere a Instagram, il link per accedere a Spotify e quindi ascoltare. In realtà io ho messo Spotify, ma si può ascoltare il podcast su tutte le piattaforme di podcasting e anche sul mio sito. Ecco. Grazie per questa opportunità, grazie di essere stati qui.